Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti. Finalmente tocca a noi e staremo insieme fino a mezzogiorno, a noi, perché come ogni venerdì qui accanto a me c'è il dottor Franco Confalonieri. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Medico sportivo e responsabile del centro sportivo DDS di Settimo Milanese. Dottor Confalonieri, oggi una puntata un po' difficile perché affronteremo temi diversi, ma noi lo faremo con gradualità. Con gradualità, sono temi peraltro di grande interesse, quindi oggi vogliamo proprio metterci al servizio degli ascoltatori per rispondere a quelle curiosità o quelle domande che più spesso ci vengono poste. Via sms, via mail, allora abbiamo cercato di raggrupparle tutte nella trasmissione di oggi, in cui abbiamo il grande onore di avere in linea Orlando Pizzolato, grandissimissimo maratoneta italiano. Ciao, benvenuto. Grazie, buongiorno. Allora Orlando, dobbiamo coinvolgerti, abbiamo bisogno di te, perché il primo argomento, come da sommario, che affronteremo oggi riguarda l'alimentazione. In modo particolare parleremo del tipo di alimentazione da tenere la sera prima della gara. Immagino che dipenda anche dal tipo di sport, dottor Confalonieri. Beh, indubbiamente dipende dal tipo di sport, perché le problematiche dell'alimentazione sono legate alle problematiche dell'energia, quindi tanto più prolungato è lo sforzo o tanto più in là è l'orario della gara il giorno dopo, tanto più noi dovremmo avere riserve energetiche piene anche grazie alla cena del giorno precedente la gara. Quindi direi che, per essere sintetici, i due imperativi che dovrebbero contraddistinguere la cena prima della gara sono: il primo, un'adeguata quantità di carboidrati, nel senso che attraverso un'adeguata quantità di carboidrati, in particolare di carboidrati complessi, penso alla pasta, al riso, in particolare noi riempiamo i depositi muscolari di zuccheri, cioè i depositi muscolari di glicogeno, e quindi mettiamo a disposizione del nostro organismo l'energia necessaria per lo sforzo del giorno dopo. E poi, tutto sommato, una giusta quantità di proteine, quindi di carni, e privilegierei le carni bianche il giorno prima della gara, quindi il pesce, il pollo, piuttosto che il tacchino, proprio perché in questo modo ci garantiamo, se c'è stato un consumo di tessuto muscolare, un minimo di catabolismo, il ripristino ottimale del tessuto muscolare, e soprattutto se ci fosse qualche carenza specifica durante la notte, le proteine introdotte con le carni bianche saranno portate dal GH laddove ce n'è più bisogno. Quindi una cena completa con una prevalenza percentuale in termini di calorie apportate sicuramente dei carboidrati, a differenza di quella che è la cena durante la vita settimanale di tutti i giorni, in cui, come abbiamo detto più volte, conviene invece privilegiare le proteine. Orlando, tu come ti gestivi la sera prima della gara, considerando l'importanza dell'alimentazione per uno sforzo prolungato come la maratona? Sì, come diceva il dottore Confalonieri, era essenzialmente una cena a base di carboidrati. Diciamo che ai tempi in cui gareggiavo io si dava meno importanza alle proteine, quindi si faceva essenzialmente un monopiatto di pasta, si arrivava anche a 200 grammi, quasi uno sforzo per mettere dentro più carboidrati possibili, con un limite ovviamente di immagazzinaggio, e poi ci si concedeva anche il dolce, purché fosse un dolce senza crema, senza grassi e facilmente assimilabili. Però recentemente, ecco, come sottolineava il dottore, le proteine giocano un ruolo un po' più importante, quindi una piccola porzione di proteine sono importanti nell'affrontare una gara di resistenza. Dottor Confalonieri, noi abbiamo parlato della sera, ma la mattina della gara invece che cosa si mangia? Ecco, qua volevo sottolineare un aspetto che è relativo anche alla sera, ma forse ancora più importante parlando della mattina. C'è un errore che assolutamente dobbiamo evitare di fare, è mangiare qualcosa di diverso da quello a cui siamo abituati a mangiare in occasione della gara. Molti lo fanno, qualcuno lo fa anche in modo scaramantico, perché pensa che quell'alimentazione, l'uovo sbattuto piuttosto che la spremuta di qualche frutto particolare, gli consenta di migliorare la prestazione, ma questo è un errore gravissimo, perché comunque comunque l'introduzione di un alimento cui non siamo abituati rappresenta uno stress per il nostro organismo che si aggiunge allo stress della gara, allo stress delle modifiche degli abitudini e degli orari e quindi diventa controproducente. Quindi il primo consiglio è: mangiamo qualcosa che siamo abituati a mangiare. Non lasciare mai la strada certa per l'incerta, esatto. Anche nella dieta che è nel giorno della gara. In seconda battuta sarebbe molto importante ovviamente evitare cibi difficili dal punto di vista della digeribilità, penso al latte, ai derivati del latte, alle uova o a questa tipologia di cibi. In terza battuta cerchiamo qui di fare veramente un carico di carboidrati, perché ci serviranno anche per mantenere stabile la glicemia durante la competizione, durante tutta la mattinata, quindi fette biscottate col miele, fette biscottate con la marmellata, una fetta di crostata o di un dolce secco. Con un'ultima precisazione, poi magari Pizzolato completerà quanto dico. Rispetto alla gara ci sono due problematiche. La prima, se è una gara di durata, per cui per esempio la maratona, sì, allora è necessario controllare molto bene l'alimentazione e poi magari gestire anche l'alimentazione durante la gara in un certo modo, di questo potrà parlarci appunto Pizzolato. La seconda problematica, anche per gare molto brevi, penso alle gare di nuoto, di corsa o anche alla partita di pallone, che però avvengono nella seconda metà della mattinata, magari verso le 11, verso mezzogiorno, però si parte da casa presto, bisogna evitare l'errore che fanno molti di mangiare, fare colazione e poi non mangiare più nulla fino al momento della gara. È necessario mangiare, e questo è un errore che invece fanno in molti, con l'idea di non appesantirsi, magari non hanno appetito, si dimenticano di fare una merenda a metà mattina, che invece è fondamentale per mantenere costante la glicemia. Se noi abbiamo un livello degli zuccheri costante nel sangue, che non si abbassa o non si innalza, questo ci consente di usare in modo ottimale gli zuccheri depositati a livello muscolare e quindi di avere un rendimento elevato durante tutta la prestazione. Quindi anche la brioche, anche la crostatina, anche la fetta biscottata, come si diceva prima, a metà mattina diventa fondamentale anche per uno sforzo breve nella seconda metà della mattinata. Orlando, quando gareggiavi tu non c'erano tutte queste, se vogliamo, queste attenzioni nei confronti della dieta, o almeno era meno ricca? Sì, c'erano meno varietà, o comunque l'aspetto importante era continuare con un'alimentazione che fosse la classica che si era abituati. Mi ricordo che quando andavo all'estero a gareggiare, nella borsa mi mettevo fette biscottate, il miele e a volte i cereali, perché poi per evitare di fare colazioni molto presto, a volte le facevo in camera mia, ma era la colazione che io avrei fatto a casa. Poi nell'avvicinarmi, nell'approssimarsi alla gara, ecco, magari evitavo le crostatine o i dolciumi, alimenti ricchi di zucchero, e magari masticavo qualche barretta energetica, però non c'erano tutti questi prodotti. Per esempio non c'erano le maltodestrine, che adesso si nominano come un integratore energetico che utilizzano anche gli amatori nelle lunghe distanze. I miei tempi non c'erano, quindi bisognava, come diceva giustamente il dottor Confalonieri, mantenere costante la glicemia, tasso di zuccheri nel sangue, e utilizzavamo il fruttosio, cioè lo zucchero della frutta, ci portavamo qualche compressa. Invece adesso anche gli atleti di alto livello in corsa, per evitare cali di rendimento, vedo che si portano appresso un paio di confezioni di gel energetico, appunto queste maltodestrine. Ci abbiamo guadagnato, dottor Confalonieri? Non ci abbiamo, io non sono un atleta. Ci hanno guadagnato? Sì, ci abbiamo guadagnato, perché ecco, qui forse è importante puntualizzare, in questo caso le maltodestrine non sono altro che carboidrati complessi, quindi a lenta assimilazione o ad assimilazione costante nel tempo, che evitano appunto gli sbalzi della glicemia in forma sintetica, e il fatto di poterli prendere senza sovraccarico per l'apparato digerente ci consente di effettuare una prestazione in linea con le nostre potenzialità e con il nostro allenamento. Quindi non rappresentano un aiuto farmacologico, non rappresentano doping, sono eticamente accettabili e sono molto utili proprio per consentirci di esprimere il nostro talento. Quindi non bisogna confonderle con prodotti che alterano la prestazione, quindi sono, al di là degli effetti sulla salute, non accettabili sul piano etico, ma semplicemente come sono prodotti che ottimizzano le nostre abitudini alimentari. Non so se Pizzolato è d'accordo. Orlando. Certamente, perché è giusto dare indicazioni corrette per evitare che gli amatori soprattutto interpretino alcuni prodotti con un eccesso di aspettative e dall'altra parte a volte invece non li considero per il timore che non è corretto. Le maltodestrine altro non è un prodotto che è l'evoluzione dell'alimentazione dello sportivo e quindi a volte è suggerito portarle con sé in corsa piuttosto che incappare in quelle crisi energetiche dove l'atleta spesso finisce poi la corsa veramente fisicamente male. Ecco, questo è un consiglio che vale mille punti, perché se a darlo, senza nulla togliere al dottor Confalonieri, ma è Orlando Pizzolato. Grazie Orlando per essere stato con noi. Grazie a voi per avermi ospitato. Grazie. E noi, dottor Confalonieri, proseguiamo la nostra trasmissione e affrontiamo il secondo tema di oggi, che possiamo riassumere con la tipica frase: ho fatto, ma non ho visto nulla. Adesso ci rivolgiamo a chi in particolare, con l'obiettivo di perdere peso, si è iscritto in palestra e non solo non ha visto scendere di un grammo il peso, l'ago della bilancia, si è addirittura spostato, ma in avanti i chili sono aumentati. Dottor Confalonieri, questa è una triste realtà. Che dice? Ecco, diciamo aumenta di peso, magari non ingrassa ma aumenta di peso, che sono due cose diverse. Allora facciamo bene il distinguo, perché questo... oggi ho capito che lei vuole proprio la puntualizzazione, rompiamo il capellino in quattro, proprio quelli fini. Oggi voglio mettermi al servizio in modo professionale. Dai, allora. Allora, il ragionamento è di questo tipo: l'aumento, la diminuzione di peso riguarda globalmente i tre compartimenti del nostro corpo, quello osseo, quello muscolare e quello grasso. Noi possiamo diminuire di peso. Non faccia però tanto il duttore. No, noi possiamo diminuire di peso perché abbiamo perso tessuto grasso, viceversa possiamo aumentare di peso perché abbiamo aumentato tessuto grasso, ma anche perché abbiamo aumentato tessuto muscolare. Magari con una diminuzione o con un tessuto grasso rimasto costante. Quello che succede spesso a chi va in palestra è che da un lato non modifica contestualmente le proprie abitudini alimentari in modo adeguato e quindi non perde grasso. In compenso si allena, tonifica i muscoli, aumenta la massa muscolare e quindi aumenta di peso. Quindi il primo consiglio, poi magari vedremo gli aspetti legati all'allenamento. Oggi li diciamo tutti. Che io potrei dare, attenzione, cogliete l'occasione di aver iniziato il lavoro in palestra per mangiare in modo più intelligente. Quindi per ridurre l'apporto calorico globale o almeno per mantenerlo costante avendo introdotto l'esercizio che comporta un aumento di consumo, e soprattutto ridistribuite gli alimenti privilegiando i carboidrati che andrete a bruciare con l'allenamento prima dell'allenamento e limitandovi a un pasto esclusivamente proteico dopo, a un po' di reidratazione, a un pasto prevalentemente proteico dopo, perché in questo modo ottimizzerete il consumo calorico che avete introdotto con la seduta di palestra. Questo dal punto di vista della dieta. E lei infatti ci ha parlato proprio dal punto di vista nutrizionale, tra l'altro ha parlato di allenamento, quindi noi stiamo rivolgendoci a chi va in palestra almeno 2-3 volte alla settimana. Minimo 2 volte, sì. Ecco, perché chi dice vado in palestra e non dimagrisco nulla, poi si scopre che va una volta ogni 15 giorni. No, dovremmo essere almeno, almeno sulle 3 ore di allenamento settimanale, quindi 2 sedute da 1 ora e mezza. Però io penso che non sia solo un problema di dieta, magari uno in palestra anche sbaglia qualcosa o privilegia alcuni esercizi invece di altri, e per questo ho invitato Pietro Migliorati, che è dottore in scienze motorie e preparatore atletico, pregandogli di darci una mano. Buongiorno dottor Migliorati e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, saluto l'amico Confalonieri e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio. Dottor Migliorati, allora, a parte la dieta, il dottor Confalonieri è stato molto preciso anche facendo i vari distinguo, ma è possibile che questo aumento di peso sia determinato da un uso non corretto degli attrezzi che ci sono e degli esercizi che si fanno in palestra? No, diciamo che l'uso scorretto degli attrezzi riguarda un altro settore. Per quanto riguarda l'aumento ponderale, è naturale che avvenga perché chiaramente il tessuto muscolare, oltre a pesare decisamente di più del grasso corporeo, fa sì che essendo sviluppato con qualsiasi tipo di attività, anche la più scorretta, vada a modificare appunto il peso corporeo del soggetto che ha iniziato ex novo, diciamo, questa pratica fisica. Dottor Confalonieri? Eh sì, questo è un aspetto estremamente importante, nel senso che comunque nel momento in cui io comincio, il muscolo è estremamente recettivo rispetto all'allenamento che io vado a proporgli, e quindi essendo estremamente recettivo, al di là dell'allenamento che fa, aumenta rapidamente di massa. Quindi il primo effetto che ha la quasi totalità della gente che viene in palestra è: si è pesato il primo giorno, si pesa dopo 15 giorni ed è aumentata di peso, e quindi spesso abbandona perché dice: ma come, sono venuto con un obiettivo e invece sto andando nella direzione opposta. Aggiungerei un'altra cosa che riguarda le nostre ascoltatrici. È chiaro anche che il controllo del proprio peso corporeo deve tener conto anche del ciclo mestruale, dove persone più soggette di altre a diciamo ritenzione idrica potrebbero vedere aumentato anche di 2 kg il proprio status senza aver fatto granché dal punto di vista fisico. Viceversa, per quanto riguarda i nostri ascoltatori, direi che un buon controllo potrebbe essere il verificare se la fibbia della cintura dei pantaloni contemporaneamente si sta stringendo. Questo dovrebbe rassicurare i nostri maschietti del fatto che l'attività fisica e le ore che dedicano all'esercizio fisico sia proprio sulla strada giusta nel far perdere, nel diminuire il grasso corporeo. Guardi, dottor Migliorati, mi è piaciuto molto questo consiglio di genere. E ha battuto anche il dottor Confalonieri, che però si ripiglia subito con un nuovo consiglio ancora più sorprendente. Dottor Confalonieri, no, mi ha anticipato. È facile dire. Nel senso qua che ne vogliamo un altro. La conclusione un po' di questi ragionamenti, anche per essere molto diretti, è che il peso, purtroppo, è un dato estremamente sporco, estremamente primitivo, estremamente grezzo, e quindi noi sbagliamo a basarci sul peso. Sembra assurdo dirlo, ma è molto più scientifico verificare se possiamo stringere un pochettino la cintura dei pantaloni piuttosto che verificare se c'è stata una diminuzione di peso. Per essere un pochettino più scientifici, la cosa migliore sarebbe fare una valutazione antropometrica, andare a determinare la percentuale di grasso e quindi vedere, al di là delle variazioni di peso, se si è modificata la percentuale di grasso muscolare, ciò che ci viene indirettamente detto dalla cintura del pantalone. Allora, dottor Confalonieri, intanto che lei prova a controllare anche la sua cintura, lo può fare in diretta e al tempo, perché noi andiamo a sentire gli aggiornamenti della borsa, poi il meteo e poi di nuovo insieme. A tra poco. Siamo tornati insieme e adesso siamo virtualmente in palestra, perché vogliamo capire con i nostri ospiti, il dottor Confalonieri e il dottor Migliorati, quando possiamo vedere i primi risultati. Dottor Migliorati, le passo la palla. Allora, tenendo conto di un consiglio correttamente ha dato il dottor Confalonieri di almeno 3 ore settimana di esercizio fisico, diciamo che i veri risultati dopo il primo mese iniziano veramente ad appagare la persona che unitamente a un controllo alimentare, quindi diciamo a un'operazione di riduzione delle calorie introdotte, diciamo dal primo mese potremmo già essere un po' più sfilati, soddisfatti del fatto che l'iscrizione a una qualsiasi palestra, l'attività fisica che ci vede magari andare in giro a correre con un cappellino in queste giornate un po' fredde, insomma, ci appagano totalmente. Che la costanza premia, insomma. Sempre, certamente, senza avere dei picchi di estremo stress dal punto di vista fisico o, come l'abbiamo avuto e come mi ripeto, dal punto di vista alimentare, ecco. Dottor Migliorati, grazie per essere stato con noi, grazie per i consigli. Spero di averla qui in studio presto, magari col dottor Confalonieri, per questa sorta di gara al consiglio migliore. No, io parto già perdente. No, vedrà. Dottor Migliorati, grazie ancora, buona giornata. Grazie a voi, saluto tutti, arrivederci alla prossima. Grazie. Dottor Confalonieri, siamo andati in palestra, ci siamo allenati, ma direi di fare un passo indietro, perché vogliamo proprio occuparci di una sorta di preallenamento, possiamo chiamarlo così, il riscaldamento. Leggiamo una lettera che è arrivata in redazione che ci fa capire esattamente quello di cui vogliamo parlare. Buongiorno, sono Paolo, ho 40 anni e sono uno sportivo ritrovato. Infatti, dopo qualche anno di sosta, ho pensato di riprendere. Ma gli anni sono passati e mi sento un po' arrugginito. Sia che giochi a calcetto, sia che giochi a tennis, mi accorgo di rompere il fiato solo dopo 15 minuti. Potrebbe servirmi fare un po' di riscaldamento? E nel caso, meglio correre o fare dello stretching? Meglio un riscaldamento intenso o soltanto un'attività blanda? Dottor Confalonieri, allora, vogliamo fare le cose per bene. Riscaldamento, diamo un significato preciso a questa parola. Ma direi che nella lettera del nostro amico c'era già molti elementi importanti. Innanzitutto direi sicuramente sì, sarebbe, perché non sempre è possibile, necessario dedicare al riscaldamento almeno 10-12 minuti prima dell'attività o i primi 10-12 minuti dell'attività se uno arriva al campo da calcetto, al campo da tennis, all'ultimo momento. E il riscaldamento dovrebbe servire da un lato ad attivarci dal punto di vista respiratorio e cardiovascolare, a rompere il fiato. Sì. Cioè attivare la frequenza cardiaca, vascolarizzare i muscoli, attivare il sistema polmonare, metterci in condizione di esprimere uno sforzo elevato. Questo è il primo obiettivo. Secondo obiettivo del riscaldamento è quello anche di abituare il muscolo gradualmente allo sforzo e quindi consentire al muscolo poi di poter sopportare anche sollecitazioni intense, non a freddo, non a caso si parla di riscaldamento. Ed è da fare in qualunque attività sportiva. È da fare con caratteristiche diverse. Di cui parleremo. In qualunque attività sportiva, perché come accennava il nostro ascoltatore, vanno miscelati quello cardiovascolare e lo stretching o l'allungamento, che invece servono di più a livello muscolare. Ci sono persone anche che si strappano nella partita di calcetto proprio perché arrivano all'ultimo minuto, buttano la borsa, si infilano le scarpette e scendono. Dottor Confalonieri. Certo, che si strappano, che hanno problemi muscolari o che non riescono a rompere il fiato. Come il nostro amico Paolo. E si deprimono perché dicono non ho più energie, non ho più fiato, non sono più così una volta, invece si trattava solo di riscaldarsi, no? Un po' meglio. E da questo punto di vista sarebbe importante strutturare il riscaldamento come un micro allenamento. Quindi una prima parte con una corsa blanda o con degli esercizi di attivazione molto leggeri. Poi esercizi di stretching e di allungamento con i muscoli già caldi. Belli caldi, perché lo stretching fatto a freddo rischia di essere controproducente. Fatto questo, fare qualcosa di intensità elevata, quindi qualche scatto anche molto breve, 5-10 metri, anche spostamenti laterali, anche brevi corse, che servono proprio ad attivare al massimo l'apparato cardiovascolare e a sollecitare il muscolo, ancora 1-2 minuti di esercizi di stretching e siamo pronti per qualsiasi sport. Dottor Confalonieri, abbiamo parlato del riscaldamento, ma è utile anche alla fine dell'allenamento dedicare qualche minuto al post allenamento, quindi magari con un po' di stretching, di esercizi di allungamento, o possiamo saltarlo se abbiamo fretta? Ma questa è una bellissima domanda, perché proprio qualcosa, è qualcosa che manca nella cultura dello sport italiano anche di alto livello. Cioè il defaticamento sarebbe fondamentale, per esempio anche nel calcio, nel basket, nella pallavolo di Serie A, e non lo fanno neanche loro. Invece è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti e per ottimizzare il recupero a livello muscolare ed organico dopo l'allenamento. Quindi se avessimo il tempo, anche qui ancora meno, la metà del tempo che abbiamo dedicato al riscaldamento, 12 minuti è l'ideale per un riscaldamento, ne bastano 5-6 per il defaticamento, senza la parte intensa, cioè senza gli scattini brevi, ma con la stessa struttura che abbiamo visto per il riscaldamento. Saluto il dottor Confalonieri, appuntamento come sempre a venerdì prossimo, e noi abbiamo parlato di sportivi amatoriali, adesso voglio parlare di mamme in attesa. Uno studio fatto dai ricercatori dell'Università di Bristol dimostra che il movimento della mamma in attesa aiuterà il bambino a mantenere la linea per tutta la vita. In linea con noi abbiamo la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e direttore del Centro di Ginecologia Medica dell'Ospedale San Raffaele Snati di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, che molto piacere. Professoressa, per me è un grande piacere averla in linea, ma soprattutto vorrei commentare con lei questa ricerca e questa indicazione. Anche le mamme in attesa devono muoversi, fare un po' di attività sportiva, naturalmente con buon senso, ma i benefici, dice la ricerca, ci sono, e anche a lungo termine. Assolutamente sì, guardi, la prima raccomandazione che mi sento di fare a tutte le mamme in attesa e alle future mamme soprattutto è di praticare movimento fisico regolarmente prima della gravidanza e possibilmente di iniziare la gravidanza in peso forma. Perché? Perché questo è essenziale perché il bambino trovi un metabolismo perfetto nel corpo della mamma, oltre che un appiadamento mentale più positivo e di salute maggiore in ogni caso, perché questo farà sì che durante la gravidanza, se la mamma continua a mantenere stili di vita sani, incluso il movimento, noi si abbia un aumento di peso nel bambino ottimale, senza grandi picchi di glicemia, senza rischio di diabete in gravidanza o di ipertensione o di altri malati importanti, e quindi il fare movimento fisico durante la gravidanza, adesso poi vedremo che tipo di movimento fisico, fa sì che il bambino arrivi a termine normopeso con il giusto apporto di zuccheri, di insulina, con un metabolismo perfetto, e effettivamente gli ultimi studi ci dicono che questo predice una maggiore probabilità che il bambino abbia un normale peso non solo nella prima e seconda infanzia, ma addirittura un miglior profilo non solo di peso ma un profilo metabolico e di salute nell'età adulta. In altre parole, in quei famosi 9 mesi noi cominciamo a scrivere quelle che sono le prime battute di un percorso che durerà tutta la vita. Ecco perché le mamme sono preziosissime, non solo per far nascere i bambini ma per come li fanno nascere. Professoressa, allora diamo delle indicazioni alle nostre mamme in ascolto. Facciamo una divisione in trimestre: dai 3 ai 6 mesi quale attività consigliata, che tempi e che frequenza deve avere? Allora, innanzitutto una raccomandazione generale è di evitare in ogni trimestre gli sport che comportino rischio di caduta, quindi no alla bicicletta, anche se magari il primo trimestre ancora la possiamo tenere, assolutamente no all'equitazione, no al tennis, no a tutte le cose che comportano appunto, come dico... Lo sci? Perché io so di pancia, ho visto anche pance sugli sci. Lo sci di fondo con tranquillità, ma comunque senza buttarsi giù nelle discese da pazzi, cioè in piano, questo si può fare. Okay. Benissimo invece per tutta la gravidanza al nuoto, benissimo lo yoga, un pilates fatto ragionevolmente. Sottolineo lo yoga che non è uno sport ma è un'attività fisica di grande importanza per le gestanti, perché educa all'ascolto del corpo, a una respirazione lenta, profonda, diaframmatica, e soprattutto quando viene fatto con istruttori, istruttrici molto preparate, porta le donne ad acquisire consapevolezza su dei muscoli essenziali per il parto, che sono i muscoli del pavimento pelvico. Noi dobbiamo immaginare come una porta a doppio battente che si apre quando esce il bambino. Ecco che allora, quando la donna impara a respirare bene, a conoscere la propria muscolatura e a comandarla, arriva in sala parto in uno stato innanzitutto di maggiore serenità, di fiducia nella propria capacità di partorire naturalmente, e se è ben seguita, naturalmente la gravidanza è normale, ecco che ha una brava ostetrica, potrà avere un parto indimenticabile, non per il dolore ma per la felicità che le ha dato, per aver sentito quanto è stata capace di partecipare attivamente alla nascita del suo bambino, anche perché il suo corpo era preparato da un punto di vista muscolare, motorio e di consapevolezza motoria. Quindi il consiglio di oggi: attività sportiva regolare, con buon senso, ma, e il consiglio arriva dalla professoressa Graziottina, a tutte le mamme in attesa, aggiungete lo yoga, provate, sperimentate. Professoressa Graziottina, dedicheremo un'intera puntata ai 9 mesi della gravidanza, le faccio già un invito, così so di bloccare, e quindi anche alle mamme in attesa. Tra poche settimane parleremo proprio di gravidanza. Professoressa Graziottin, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e poi torniamo subito dopo insieme, vi aspetto. E voltiamo decisamente pagina per occuparci di un intervento molto particolare, il doppio trapianto di mani effettuato da parte dell'equipe di chirurgia plastica e della mano del San Gerardo di Monza. La paziente è una donna di 52 anni, madre di 2 figli, che nel 2007, in seguito ad una gravissima infezione, fu sottoposta ad amputazione sia di mani sia di piedi. In linea con noi abbiamo il professor Massimo Delbene, primario di chirurgia plastica e della mano, che ha effettuato il trapianto. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a lei e ai suoi radioascoltatori. Professore, si tratta di uno dei primi interventi di questo genere a livello mondiale, è vero? Diciamo che è il primo in Italia, ecco, sicuramente il primo in Italia, ma a livello mondiale sono stati fatti 22 casi, questo dovrebbe essere il 23esimo. Professore, quali sono le principali difficoltà? Ma le principali difficoltà sono che, essendo un trapianto doppio, noi abbiamo dei tempi di ischemia. Ischemia vuol dire quando non c'è un afflusso di sangue, quindi dal momento che noi preleviamo l'arto, cioè la mano, al momento in cui la riperfondiamo, cioè la la ristrutturiamo, cioè permettiamo al sangue di rifluire nella mano, quello si chiama tempo di ischemia. Ecco, quel tempo di ischemia lì deve essere breve, non può superare due ore e mezza. Per cui è dal momento che noi prendiamo la mano e partiamo dal centro di prelievo al centro di trapianto, non può passare più di un'ora, perché poi ci sono anche dei tempi tecnici ovviamente di trapianto. E questa è la grossa difficoltà, perché le due mani vuol dire che la seconda mano il tempo era più lungo e siamo dovuti comunque rimanere in un tempo ormai preciso di due ore e mezza. Le due ore e mezza servono perché da un punto di vista di ischemia, cioè quindi di perfusione dell'arto, non possiamo andare oltre quel periodo, perché altrimenti le cellule vanno a morte, cioè diciamo muoiono per ipossigenazione, cioè non hanno più ossigeno e quindi vanno in degenerazione cellulare. Insomma. Professore, ma per quanto riguarda la prognosi, la signora sta bene, è stata operata nei giorni scorsi, ma quando si può sciogliere la prognosi e vedere la piena riuscita dell'intervento? Il problema è che dal punto di vista vascolare, cioè la perfusione delle mani, dobbiamo aspettare almeno 7-10 giorni per capire se effettivamente la perfusione permane ed è stabile. Dopo 10 giorni più o meno è stabile, quindi possiamo sciogliere la prognosi. Dal punto di vista della funzionalità dobbiamo ovviamente fargli fare un percorso di rieducazione, di recupero. Dal punto di vista del possibile rigetto, e lì ovviamente è più complessa. È certo, infatti professore, per la prima volta in questo tipo di trapianto si sono utilizzate le cellule staminali della paziente, proprio come tecnica antirigetto, è una procedura innovativa. Sì, direi di sì, nei trapianti solidi direi di sì, in alcuni centri nel nord Italia già si usano per i trapianti di rene. La tecnica consiste nel prelevare dal midollo osseo della paziente prima del trapianto delle cellule staminali emopoietiche, le mesenchimali, le quali poi tramite il laboratorio Verri, che è un laboratorio qui in eccellenza di San Gerardo, vengono espanse, vuol dire amplificate come numero, cioè quindi vengono moltiplicate, poi vengono congelate in attesa del trapianto. Dopo il trapianto si fanno due infusioni, una entro le 24 ore e una a 10 giorni di queste cellule, e queste cellule hanno un'azione antirigetto, quindi è una cosa innovativa in un trapianto solido, quindi un trapianto di mano. Mi scusi professore, mi faccia capire, quindi questo vi permette di diminuire la quantità di farmaci antirigetto? Questo è il gold standard che noi vorremmo fare, e questo speriamo che si poi verifichi nella realtà. Sono cose molto sperimentali, però insomma abbiamo cominciato. Professor Del Bene, la signora Carla ha già mostrato i primi segni di mobilità delle dita, però per lei gli interventi non sono ancora finiti, perché ci saranno successivi interventi. Sì, ci saranno degli interventi successivi probabilmente di modellamento cutaneo, di sostituzione cutanea della cute del donatore, perché chiaramente la cute del donatore è il nostro problema cardine, perché è quella più antigenica vuol dire che produce più sostanze che non vengono riconosciute dall'organismo, e di conseguenza è quella che è diciamo la causa del rigetto, insomma. Per cui cercheremo di sostituire questa cute con la cute invece della signora Carla, della ricevente. Quindi sì, avrà ancora degli interventi davanti, ma non grossi interventi ovviamente come il primo. Senta professore, però la signora Carla avrà anche un supporto psicologico per affrontare il post trapianto, perché immagino che sia abbastanza difficile, no, accettare, per lei cambia sicuramente la vita, potrà condurre una vita normale, ma sono due mani che le sono state trapiantate, ecco. Dunque, noi questo progetto che appunto è arrivato all'11 di ottobre e che si è concluso poi con il trapianto bilaterale delle mani, è un progetto che parte dal 2008, cioè che parte dall'ottobre del 2008, quindi la signora Carla è in cura, è brutto dire, ma non è in cura, ma diciamo è seguita dalla psicologia clinica di San Gerardo, del dottor Umberto Mazza, che la sta seguendo benissimo da ottobre del 2008 e che la sta seguendo anche in questi giorni, e quindi continuerà a seguirla anche dopo. Quindi è stata preparata, ecco, psicologicamente, e avrà ovviamente sicuramente un supporto che continuerà anche dopo. Quindi tutto un percorso molto lungo che è iniziato tanto tempo fa e che andrà avanti per lungo tempo. Insomma. Quindi è proprio già stata accompagnata ad accettare l'idea. Sì, ecco, sì. Mi piace sottolineare questo aspetto. Professore, ma scusi, ma il doppio trapianto di mani, ma c'è chi dice perché, dato che ci sono delle protesi ormai raffinatissime, tentare questi interventi che sono molto complessi, complicati, richiedono grandi strutture, poi personale che è capace di seguire tutto questo percorso, i rischi ci sono, insomma, forse sono superiori all'impianto di protesi. Dunque, allo stato attuale noi abbiamo ancora delle protesi bidigitali, cioè con una presa bidigitale vuol dire due dita, che la signora ovviamente ha provato. Protesi pesanti, fastidiose, che ingombranti, che lei non tollerava. Questo è stato uno dei momenti, diciamo, delle cose che ci ha deciso ad aiutare questa signora. E la seconda questione è che le protesi pentadigitali, cioè quelle di ultima generazione, pesano ancora, mi pare, intorno ai 9 kg, insomma, sono abbastanza pesanti e non sono ancora in commercio, sono abbastanza complesse. Quindi, tanto che la signora l'anno scorso ha detto, beh, insomma, se proprio dovesse andare male il trapianto avremo delle protesi nuove, ma il problema è che quando uno ha una protesi sola è più facile che si abitui, ma quando sono quattro le protesi, perché la signora ha amputata anche dei piedi, quindi quando sono quattro le protesi, allora la questione diventa un po' complessa nella vita di relazione quotidiana, cioè nel, certo, nel possiamo vivere, immaginare, insomma, quindi questo che ci ha spinti, anche questo ci ha spinti ad assecondare il suo desiderio. Professore, prima di salutarla, che cosa le ha raccontato la signora Carla? Quali sono state proprio le prime parole che le ha detto dopo essersi risvegliata dall'anestesia? Beh, era molto contenta, come potete immaginare. Immagino. Le abbiamo mostrato le mani che non avevo ancora visto, si è commossa, insomma era molto contenta, anche perché era la fine di un percorso che dura da tanti anni, dal 2008, quindi che l'abbiamo preparata, ma lei in realtà è stata amputata nel 2007, quindi sono 3 anni che è senza mani, senza piedi. Per cui effettivamente anche emotivamente, anche se l'abbiamo preparata molto bene, però emotivamente è stato uno shock, insomma, una cosa. E poi vedere che queste dita con il suo cervello, vedere già che si cominciavano a muovere, insomma, questo poi ha facilitato sicuramente la parte psicologica, insomma. Professore, e per lei che emozione è dare? Beh, è una cosa molto bella, perché è un intervento non rutinario e poi sa. Il problema dei chirurghi è che è difficile capire dove finisce l'ambizione e la vanità del chirurgo, dove comincia l'utilità del paziente. Noi in questo caso non abbiamo avuto dubbi, perché non ci sono stati né problemi né etici né morali. Una donna che è amputata con 4 arti, con 4 protesi, credo che nessuno moralmente possa porsi un dubbio. E siamo effettivamente contrari al trapianto monolaterale. Monolaterale vuol dire una mano sola, allora assolutamente questo non lo faremo mai. Cioè, come è stato fatto in precedenza, cioè il trapianto per noi deve essere qualcosa che dove il gioco valga la candela, dove le terapie immunosoppressive che sono pesanti, però abbiamo un risultato e un miglioramento della sua vita. Su una monolaterale, su una amputazione monolaterale, uno può utilizzare una protesi assolutamente di quelle appunto digitali e l'altra mano è abile, quindi può vivere bene. In questo caso devo dire che problemi etici non abbiamo avuto, insomma. Professore, grazie, complimenti, buona giornata. Saluti, grazie, buona giornata. Saluti la signora Carla. Buona giornata. Grazie. E per oggi è tutto, vi saluto, vi do appuntamento a domani. Ricordate, un pizzico in meno, tanta salute in più, in collaborazione col Mario Negri di Bergamo. Vi aspetto domani, buona giornata.